avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail. Chiedo veramente scusa, miei radioascoltatori. So che questa mattina avrei dovuto affrontare con impegno l'idea di televisione che è stata espressa ieri sera dal programma di Fabio Fazio, Vieni via con me. Era nelle mie corde, me lo sono guardato con grande attenzione, quindi avrei ben cose da dire. Ma alla fine mi è venuta una tal tristezza, una tal voglia di parlare d'altro, una tal voglia di cercare delle derive piacevoli nelle pieghe, nelle fessure di questa giornata così triste, così piovosa, che oggi tratterò un altro argomento. Come fare i pomodori per l'inverno? Pomodori pelati alla mia maniera, alla maniera della Carla Fracci della cucina. Mi servono 500 g di farina, 300 cc d'acqua, un cucchiaino di sale e 20 g di lievito. Sciolgo il lievito nell'acqua e lo aggiungo alla farina. Tra le tante possibilità individuali di esistere, di far capire al mondo che noi ci siamo, che noi abbiamo un talento, che noi abbiamo una specializzazione, che noi sappiamo fare qualcosa, che noi valiamo qualcosa, c'è oggi la fantastica maniera di rappresentare davanti a una telecamerina casalinga, davanti a un videotelefonino, davanti a un qualsiasi strumento di ripresa della realtà digitale, visto che ognuno ne ha a bizzeffa a casa, quello che noi facciamo quotidianamente, nel nascosto e nel silenzio anche del nostro cucinino, perché è qualcosa di fantastico. Visto che la rappresentazione pubblica della scena politica, della critica lecita è possibile ad ogni tipo di ideologia, che l'ammettiamo purché sia poetica, purché sia interessante, purché sia divertente, purché ci faccia pensare, purché ci toglie dal torpore, è praticamente a elettrocardiogramma piatto, elettoencefalogramma inesistente, visto che ormai vediamo soltanto zombie rappresentare la nostra realtà, andiamo a cercare delle realtà meno da morti viventi. La vediamo nelle rappresentazioni individuali dei propri talenti. Questa signora mostra su YouTube, nessuno glielo chiede, nessuno gli impone di farlo, nessuno dà lei motivazioni diverse da quelle di fare un gesto gratuito e generoso nei confronti dell'umanità, quanto lei sia brava a fare i pomodori e il pane. Fare la salsa di pomodori, che è un'attività agreste che io ricordo di aver seguito, anzi che era tra le scansioni rituali liturgiche del mio anno fanciullesco. Esisteva il periodo in cui si facevano le conserve di pomodori e in casa era un grande affare, ma allora abitavamo in campagna, avevamo tanto spazio, avevamo tanta aria aperta. Oggi farlo nel chiuso delle proprie casette probabilmente richiede un po' più di ingegno. Quindi questa mattina vorrei dedicare la puntata all'autarchia alimentare, a tutte le forme di artigianato domestico, di bricolage culinario, che sono delle vere e proprie sfide alla banalità. Oggi la banalità del proprio vivere vorrebbe che noi acquistiamo molto velocemente le cose che ci fanno perdere meno tempo e dedichiamo alla preparazione, alla cura, alla cultura del cibo il minor tempo possibile, a meno che noi non siamo degli esteti, dei grandi cuochi, degli iscritti a dei club particolari di esteti del cibo, ma quella diventa un'operazione di pura maniera, diventa una forma di socializzazione forzata, una sorta di radical sciccheria della degustazione. Noi invece queste sono sane massaie, sani omini di casa, che sono orgogliosi del loro saper costruire delle cibare, delle derrate alimentari che altrimenti potrebbero comprare benissimo al supermercato. I supermercati sono pieni di salsa di pomodoro. Perché questa signora sceglie e decide di farsela a casa? 800 24 0024, venite allo scoperto questa mattina, o autarchici alimentari o veri poeti del tedio quotidiano. Ciao, allora in questo video vi mostrerò come è possibile fare lo yogurt fatto in casa. La prima cosa che dovete fare è riempire una pentola d'acqua e portare in ebollizione, fatene almeno un litro e mezzo, due litri, insomma abbondante. Buonasera, E andrò a presentarvi questa sera la preparazione della birra fatta in casa. E andremo alla preparazione di una London Porter. Sono le tagliatelle di mattina, un siero di energia, effetto vitamina. Sono sicuro che tra chi mi ascolta esiste senz'altro la rappresentazione del campione umano che vado cercando questa mattina. Sono persone che hanno una loro individuale rivolta contro l'omologazione degli atti, del pensiero, dei consumi, dell'agire, dei modi di essere. Omologazione che ormai è rappresentata, sentite le tagliatelle di nonna Pina, che possono entrare comunque nella categoria di manufatti genialmente artistici che ognuno può fare, sono diventati la sigla di un programma televisivo che è la totale antitesi rispetto al bricolage domestico. È la serializzazione del fornello, della cucina, sono sempre grandi cuochi che vanno lì, o sono sempre casalinghe che per la loro sciatteria, per la loro idiozia diventano emblematiche e vanno lì a dare spettacolo di se stesse. È il pubblico grande spettacolo omologante, invece il piccolo spettacolo individuale è quello che voglio questa mattina, da persone che mi chiamino e mi dicano come riescono a sfangare la noia della loro giornata inventandosi qualcosa che la cucina in sé, nella sua conformazione topografica, nella sua struttura di luogo in cui lo spazio viene ottimizzato, non permetterebbe. Esistono delle peripezie favolose per riuscire a fare ad esempio la conserva di pomodori dentro casa, per fare le marmellate come si facevano una volta, per fare il pane senza avere nemmeno il fornetto adeguato. Quali sono? 800240024. Ciao a tutti, sono Sonia di Giallo Zafferano, benvenuti nella nostra cucina per preparare insieme la confettura di prugne e zenzero. Per fare la mozzarella gli ingredienti necessari sono innanzitutto della cagliata, poi dell'acqua calda, un contenitore con acqua freddissima e ghiaccio, un contenitore vuoto. Allora, oggi facciamo dei biscotti al cioccolato. In una ciotola, cioè in una terrina, quello che volete, ho messo 300 grammi di farina, no, 330 grammi di farina, 250 grammi di zucchero, sì, di zucchero, scusate, di burro. Con molta pazienza facciamo incorporare tutti gli ingredienti fino a far diventare... Naturalmente chi pratica con passione e con un certo riserbo il bricolage culinario non è certo un professionista, soprattutto davanti a una telecamera, ma questo desiderio di immortalare, di diffondere, di rendere partecipi gli altri del proprio sforzo per cambiare la cifra omologante del proprio quotidiano merita senz'altro attenzione. Barbara, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo, insomma, sentendo questa trasmissione stamattina ho detto sono io, questa mi scappava anche un po' da ridere. Praticamente io arrivo, ho 45 anni, ho sempre lavorato tantissimo, ho fatto 2-3 lavori per volta. Sono arrivata negli ultimi anni ad avere una piccola impresa, diciamo, addirittura con 30 collaboratori, internet, cosa email. Fa? Di cosa si occupa? Mi occupavo, era nel campo della danza. E diciamo che partendo da semplice danzatrice sono arrivata ad avere una grande scuola di danza con una trentina di collaboratori, però questo ha significato essere davanti al computer dalla mattina alla sera. Che pensi? Guardi, ero convinto, ma io ho veramente una visione antiquata, che occuparsi danza significava stare tutto il giorno attaccati a una sbarra con delle scarpette e sulle punte. Diciamo ballo allora, più che danza, ballo ludico, quindi i balli che si fanno nelle balere. Tango, quindi diciamo lei si occupava di ballerine ludiche, così? Sì, diciamo così, solo che poi essendo... Beh, una bella attività, oggi pare che vada... Molto bella, sì, molto. E come mai è fallita? Ha chiuso? No, non ho chiuso, l'ho ceduta perché sono arrivata al punto che era diventata, diciamo, troppo grande ed ero diventata una contabile. L'ha ceduta perché è diventata troppo grande, quindi di cosa si occupa? Faccio il pane, nel senso che solo ieri sera col mio bambino ed un suo amichetto venuto a casa a giocare e hanno fatto un giochino da tavolo, poi ho detto ragazzi facciamo la pasta e si sono fatti la pasta e se la sono mangiata alla sera ed è stato bellissimo e io adesso sto facendo il pane, io tutte le settimane faccio il pane, non compro più il pane. Mi sono allontanata dalla tecnologia, mi sono proprio stufata, ho detto ma non era quello che volevo fare da grande e sto facendo quello che ha detto lei, sto tornando indietro, sto imparando a cucinare i legumi, quelli che richiedono ore e ore di ammollo, di cottura, fare il giorno prima ed è una cosa bellissima. Si mette i fagioli a mollo e ceci a mollo, me lo ricordo, è una delle attività di preludio del piacere che abbia dato il giorno dopo. Io guardi, normalmente non sono un esteta del cibo, sono molto frettoloso, non do un gran valore a quello che mangio, anzi mi appassiona molto poco anche tutta quella sorta di filosofia che sta dietro al cibo. So cucinare, mi piace cucinare, ho scoperto stranamente, improvvisamente, di avere alcune specializzazioni culinarie come la pizza alla doppia patata, che è una mia specialità, ma non avrei mai immaginato, e lo sto vedendo, che per molte persone sia una fuga gioiosa, una piacevolissima maniera di fare uno sberleffo al quotidiano, quello di occuparsi di queste attività. Immagino per lei, che era una danzatrice, aveva una scuola di danza, oggi avere le mani in pasta e farlo con gioia, quando uno basta che metta il naso fuori casa e trova varietà di sfilatini, filoni, rosette, cioè di tutto. Farsi il pane a casa, quindi, è una grande sfida contro la tirannia del tempo, vorrebbe mangiarci tutto. Annalisa De Luca, buongiorno. Buongiorno. Lei ha un po' di febbre, vuole che io specifichi che ha una costipazione influenzale, ma nemmeno si sente, lei ha una voce molto cristallina. Lei è un'esperta fattrice di pane, ha scritto un libro, Facciamo il pane, Terra Nuova Edizioni. Ha sentito la nostra ascoltatrice, è diventata l'attività non di rifugio, ma di gioiosa sfida al logorio della propria esistenza. Lei è d'accordo? Come mai lei ha scritto un libro sul fare il pane? Io ho scritto un libro sul fare il pane, ma in particolare sul fare il pane a lievitazione naturale, perché sono stata folgorata dai fermenti selvatici. Oddio, ci spieghi bene. Ha qualcosa a che fare con la madre del lievito? Esatto, è quella specie di UFO, io l'ho avuto nel mio frigorifero per qualche tempo, una sorta di UFO verdastro che si passavano fra colleghe, mia moglie e le sue colleghe, e a un certo punto l'ho eliminato fisicamente. Spieghi bene cosa. Verdastro, ha fatto bene a eliminarlo, perché non dovrebbe essere verdastro, però dà molte soddisfazioni, soprattutto proprio perché non c'è l'inoculazione che c'è nello yogurt o appunto nel pane fatto con il lievito di birra, ma sono batteri che spontaneamente si infilano nell'impasto e fanno delle cose meravigliose, che danno un sapore sempre diverso al pane, mentre il pane fatto con il lievito di birra viene sempre, è una certezza, dà grosse soddisfazioni, però è sempre quello. Mi conferma il fatto che questa storia della madre del lievito è un po' come il fuoco delle vergini vestali. So che si passa una madre del lievito a Roma da anni, di amica in amica, è sempre la stessa roba che cresce, è una specie di liturgia mistica e un segreto femminile, qualcosa del genere. Sì, devo dire che coinvolge però anche gli uomini, soprattutto per quello che riguarda i fuochi. Non so perché gli uomini sono particolarmente colpiti dall'aspetto della cottura. Quindi quando si comincia poi a provare a fare il pane anche cuocendo nel forno a legna, gli uomini improvvisamente appaiono e prendono in mano il fuoco. E diventa anche una cosa interessante vedere come ci si divertono, no? Come studiano. Ma in una casa media, normale, cittadina, dove si trova un forno a legna? Io non ho nemmeno la canna a fumare a casa mia, come faccio? Però diciamo che in una progressione successiva, alla fine, prima o poi si prova, perché comunque... Sì, c'è una seconda casa, certo, in una seconda casa... Oppure si trova un amico che ce l'ha e che lo offre volentieri, di solito qualcuno più o meno lo trova, insomma non è difficile. Oltre alla vertigine del pane cotto al forno a legna, so che lei è esperta anche di yogurt. Sì, però quello mi dà meno soddisfazione, appunto, perché comunque sono quei batteri lì selezionati che fanno il loro lavoro e che quindi producono questo prodotto differente. Non c'è poesia, diciamo, nel batterio da yogurt. Infatti, a me una volta regalarono la yogurtiera, uno degli oggetti più inutili, me lo frullai subito assieme alle forchettine per la fonduta e altri oggetti del genere. Lo capisco, perché no, è comunque un modo di risparmiare e di risparmiare tanto, però non c'è mistero, non c'è rischio, come per esempio invece ci può essere con i crauti. I crauti sono un'altra fermentazione selvatica, si mettono lì con l'acqua e il sale, le verdure tagliate fini fini, e si trasformano proprio grazie a questi batteri che spontaneamente ci vanno dentro, e una cosa diversa e molto più nutriente. Lei ci sta facendo capire, Annalisa De Luca, che esiste una sorta di arte alchemica che si tramanda nelle cucine italiane. La passione e la meticolosità nel definire le trasformazioni degli ingredienti che le ha, proprio la passione e il senso misterioso dell'alchimista. Sentiamo qualche ascoltatore. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho chiamato perché ho 41 anni, lavoro tantissimo, ho due figli, una casa da gestire, un marito disordinato, e nella mia domenica il mio ritaglio di tempo, il mio momento di relax è fare da mangiare. Quindi ho riscoperto fare la torta, fatta velocemente in casa, però comunque è una cosa genuina, non sopporto le brioche, i biscotti pieni di conservanti, coloranti, eccetera. e poi ho riscoperto anche il fare il pane e ultimamente anche il croissant mi sono messa, ho provato, ho sperimentato. Nel frattempo cosa fa suo marito mentre lei sta in cucina a fare il croissant? Guarda le partite di calcio sul divano oppure mi gestisce i bambini, magari gioca con i bambini. Sì, però è una domenica che può dare degli spunti di tenerezza, ma è il fallimento di ogni passione, è veramente la pietra tombale di ogni rapporto a due. Lei che cucina, lui che guarda la partita in pedalini, ma è tristissimo. Beh, ma insomma, ma non è che si sta tutto il giorno in questo contesto. Beh, cioè, le partite durano fino a pomeriggio inoltrato. Mi sembra che poi la domenica sera la voglia di uscire o di fare qualcos'altro ben poca. Beh, diciamo che possiamo mangiare quello che ho cucinato la domenica sera. Così gli viene anche la panza, perché i carboidrati dopo una certa ora non è che fanno bene la linea. Ma si ritrova la passione nel croissant fresco appena sfornato, anche guardi, alle 10 di sera. Io mi sto rendendo conto in questo momento che quella che all'inizio vedevo come una sorta di passione dadaista, in realtà è un clamoroso ritorno ai sani antichi e cementificati matrimoni di una volta. Sentiamo Marco. Marco. Buongiorno. Lei è un omino di casa, finalmente. Io sono un omino di casa. Ecco, perché l'operaio. Mi avete dato tanta soddisfazione in passato, finalmente riemergete. Cosa fa lei? Ecco fatto. Io lavoro alle cave di marmo a Carrara. Quindi fa il cavatore di marmo come primo lavoro. E il secondo? Sì, sì. Il secondo mi dedico all'orto, al terreno, a fare la conserva, marmellate, la pasta fatta in casa, tutte queste cose che mi diverto. Quindi si toglie la polvere di marmo dai capelli e dalle sudate rughe della fronte e affonda le mani nella frutta per fare la marmellata. Sì, capelli, averceli, non ce n'ho più comunque, vabbè, guarda. Vabbè, ci avrà, che ne so, delle stalattiti di marmettola in testa al posto dei capelli. Sì, sì. Naturalmente. Ecco, allora, mi dia una ricetta di marmellata. Cosa mette nella marmellata? Quali sono le dosi? Vediamo, adesso la interrogo. Ma la marmellata... Dosi di zucchero o frutta? Zucchero poco, io ne metto poco, dipende anche quanta frutta... Se la mette poca viene moscia però. Dopo anche troppo dolce stucca, non è buona la marmellata troppo dolce. Dipende che frutta ci mette. Dipende sempre, per esempio i fichi sono molto dolci, quindi ci va messo meno zucchero, poi il fico nero è ancora più dolce. Ma anche mangiata la svelta la marmellata di fichi, eh? Sì, quella dura pochissimo. La marmellata d'arance che è abbastanza laboriosa. Allora, mi dica lei con cosa la fa la marmellata? Ha quegli strumenti meravigliosi di cui non voglio dire la marca che fanno tutto loro, o all'antica maniera prende, bollisce, poi ripassa, pastorizza? No, l'antica maniera, come la conserva fatta in casa. E poi la pastorizza? Maniera. Sì, sì, sì. Poi a testa in giù si fa il sottovuoto, il vasetto, nell'acqua bollente. E cos'altro aggiunge oltre zucchero e frutta? Niente. Ecco, beh, questo volevo sapere. Questo è già qualcosa. Sentiamo Francesca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo dire che per noi, io sono madre di 4 bambini, quindi per noi la cucina è un modo di stare assieme, un modo riunire la famiglia, e ogni bambina ha il suo ruolo, c'è chi taglia, c'è chi fa una cosa, chi ne fa un'altra, una volta si taglia, qualche volta si taglia anche un dito, chiaramente, però è è una cosa bella, ecco, che anche mio marito adora cucinare. È un omino di casa suo marito, sì. No, lui sta 12 ore fuori, forse. Ma allora scusi, lo mette nelle ore notturne, lo mette a cucinare. A lui piace, è un modo di rilassarsi. Quando qualche bimba è malata, allora facciamo i biscotti, o facciamo quello, facciamo l'altro. Ecco, mi dica qualche specialità che fate allora, voi. In cosa siete eccellenti? Allora, mio marito nei sughi per le paste è bravissimo, eccezionale. Gli uomini li fanno meglio delle donne i sughi, questo guarda, è vero. Una cosa. Lo sa perché? Che voi donne tendete sempre a risparmiare, avete questa sorta di micragna degli ingredienti. Lui mette troppo olio, sa com'è? Vedi, mi conferma. Ma siete voi che siete avare di lussuria quando cucinate? Siete così prodighe quando vi concedete nelle intime d'azioni, ma perché quando cucinate siete così avare? Non lo so, però io faccio dei dolci buonissimi. Sì, e quindi... dolci, infatti, vero. I dolci al cioccolato. Le donne anche quando fanno la spesa sono avare. Una spesa fatta da me, non so perché, costa 6 volte quella che fa mia moglie. Però almeno ma voi comprate tutto, anche le cose che non sono necessarie. quando andate però danno felici. Il superfluo rende felici. Quello è vero, ha ragione. Infatti lui torna sempre a casa felicissimo, come se avesse raggiante. Poi non sa che 5 iene l'aspettano a casa, però insomma... Quindi voi fate biscotti, poi ha detto lui fa i sughi? Facciamo torte al cioccolato buonissime, io sono specializzata nelle torte, oppure a volte facciamo la pasta fatta in casa come ci hanno insegnato le nonne toscane, le tagliatelle. Fare la sfoglia non è facile, ci vuole spazio, ci vuole anche una certa maestria. Lo so, infatti casa mia è sempre un macello, perché poi ho la cucina minuscola, piccolissima, il sogno della mia vita è avere una cucina gigante. Le posso fare una domanda cattiva? Quando ha finito di cucinare? la cucina è in condizioni migliori quando cucina lei o quando cucina suo marito? Perché altra cosa, gli uomini puliscono. Ma già la risposta alla domanda. Le donne perché non puliscono. Quando cucina mio marito è perfetta. Certo. Quando anch'io. Cucino io, è uno schifo. Cosa, arriva lui e fa: cosa hai fatto? Hai tirato giù tutto. Io apro. Questa è la vecchia filosofia degli uomini di casa che più volte abbiamo sottolineato. Gli uomini, non so perché, forse perché lo fanno solo per lussuria e non per condanna, lasciano sempre pulito. Io ogni forchettina che uso la lavo e la metto a posto. Chi lo fa invece, che appartiene al genere femminile, crea una mucchiata di pentole zozze e non prova lo schifo di cucinare assieme ai residui della propria cucina. Saluto Annalisa De Luca, se ha qualcosa da aggiungere velocemente prima delle informazioni della borsa rispetto a quello che ha sentito. Che è molto divertente il tema, è bello vedere. Può rimanere ancora con noi o deve soccombere ai farmaci e alla malattia? Ce la posso fare. E allora resti lì, lo sapevo che le sarebbe piaciuto. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. E la ricetta di oggi è pane fatto in casa. Prendete un fornaio con la scabbia. Se non ce l'avete, basterà del pan grattato da aggiungere all'acqua, dopodiché si aggiunge della colla vinilica in questo modo. Ma il tocco da maestro è questo: una mappa catastale d'un rogito che dovrete infilare in questo modo. È importantissimo il rogito perché in questo modo potrete dimostrare di avere una casa dentro la quale avete fatto del pane fatto in casa, se no è difficile. E voilà, il piatto è servito, golosoni, ma questo me lo pappo tutto io. Gnam gnam, arrivederci. Questa era Rocco Tanica che spiega la ricetta schifosa per fare il pane in casa con le scaglie di scabbia del fornaio, naturalmente. Beh, questo non è esattamente quello che emerge dalle nostre telefonate, nei forum in Italia che ha questa grande passione, ma una passione rifugio. Sono convinto che non c'è una scelta primaria, non è un bisogno insopprimibile, che a un certo punto, guardandosi intorno, si preferisce occuparsi di questo tipo di attività. Questa probabilmente è la parte vera del paese, quella che non si appassiona in realtà alle concioni di Fabio Fazio, ai balletti di Benigni, ma non lo dico perché c'è una prevenzione, lo dico perché mi ha veramente fatto dormire quello che speravo che fosse la quintessenza della liberazione dal gioco del turpidume televisivo. In realtà è stata una sorta di brindisi con bicchieri di aranciata fatto tra chierichetti. Mi piace che la mia gruppi azteca Maria Castaneda mi scrive una frase molto poco comprensibile. Dice: la mujer deve ser buena per il metate e buena per il petate. Poi mi spiega che in realtà vuol dire che deve essere buona per quella pietra dove si trita il mais e per quella sorta di stuoia dove ci si fa tritare da uno dei tanti mariti. Quindi, però, conferma un luogo comune: non è solo la donna, ma oggi abbiamo capito che in realtà il bricolage culinario, il fai da te domestico, l'autarchia alimentare impegna tantissimo questa fantastica categoria di esseri umani che abbiamo già individuato, che è quella degli omini di casa. Mirko, sì, un omino di casa. Buongiorno a tutti. No, devi dirlo, sono un omino di casa. Un omino di casa, no, non mi cosa sa fare? No, no, siamo tanti. È un bisogno, no, invece voglio dire, è un bisogno insopprimibile quello di veramente, almeno per quanto mi riguarda, per quanto riguarda mia moglie, di stare, diciamo, appesi agli alberi per recuperare i frutti della terra, perché noi, io ho 40 anni, insomma, si viene proprio dalla campagna. O della terra o degli alberi, decida lei, perché appesi agli alberi prendere le patate è un po' difficile. No, ma quando c'è da fare la marmellata si va a raccogliere la frutta. Lei in cosa è specializzato? Ma noi, insomma, ci sono un po' di terra ce l'abbiamo, quindi si fa un po' di marmellate con gli alberi che abbiamo, raccogliamo le mandorle, quindi 2 settimane fa sono stati... La marmellata di mandorle... No, vedo no, un po' difficile. Però le mandorle ci si può fare i cantuccini, ci si può fare i ricciarelli, insomma, perché è proprio il piacere di stare la sera lì davanti al, diciamo, al doppio focolare, perché abbiamo il fuoco da una parte e la televisione dall'altra, e quindi a schiacciare. Ah, pensavo che l'altro focolare era la moglie, la televisione. insieme si parla, si ascolta. E io il doppio focolare pensavo quello acceso con la legna e quell'altro lì, invece no. Tutto per due, televisione e legna, preciso. Quindi con le spalle al fuoco a che schiacciare. Fa scintille. Noce e mandorle, e mentre si guarda la televisione si commenta i fatti del giorno. È così, è proprio il sentire di veramente la in questi weekend. Lei di cosa si occupa? Qual è il frutto che questo lo scorso, diciamo, in questi giorni siamo ad raccogliere le olive, quindi siamo ad raccogliere le olive, e quindi ci mettiamo i panni stracci, va bene, ora sono in giacca e cravatta, però il fine settimana ci si mette i guanti. Ma pensi che le olive, io mi ricordo da ragazzo, si coglievano una ad una. In Umbria non esisteva la stremolizzazione della pianta, o questi rastrelli tiravano giù. Si saliva con la scala e una a una, velocissimi, si raccoglievano. A mano si distende, perché è anche un piacere, sapete, se ne parlava questi giorni, è proprio un piacere stare sull'albero insieme agli amici di famiglia, distendere il telo e parlare mentre dire bischerate mentre si sì, la raccolta dell'oliva, diciamo, è uno dei passatempi che permette la socializzazione. Sì, infatti. E in realtà poi invece quando purtroppo si industrializza come... Sì, ma adesso cos'altro fa lei? Prego, io faccio il geometra. No, il geometra ho capito, è una sana attività, sì, amo, certo, molto i geometri, ma... La raccolta dei marroni, leggo in questo, e produce castagnaccio. Sì, preciso. Si va a prendere le castagne, i marroni nel momento giusto, si cerca di fare la tostatura, perché a volte la viene un po'. Bisogna starci attenti a come si tostano, e poi praticamente si prende il frullatore. Sì, se i marroni si tostano troppo è un problema. Sì, si prende il frullatore e si fa la farina, però è complicato, perché chiaramente a volte diventa più dura, a volte, insomma, bisogna starci dietro. Ma le mosciarelle si fanno ancora? Prego? Le mosciarelle si fanno ancora? Le mosciarelle non le conosco come. Sono quelle castagne secche che si mangiano? Sì, ma solamente le si possono, cioè le si utilizzano più che il castagnaccio, è una delle cose. Ora si fa spesso le ballotte, come si chiamano, no? Sì, se le caldaroste, sì. Se no, le caldaroste sono sulla padella, sul fuoco, sulla fiamma. Le ballotte sono con il finocchio dentro la pentola a bollire. Vabbè, in bocca al lupo, lei e le sue ballotte. Francesca. Ah, sì, Gianluca, ciao, eccoci. Rompiamo la catena degli omini di casa, sentiamo le donnine di casa. Cosa fate voi? Vi riunite? Noi cerchiamo di sfangare la giornata più dura della settimana, che è la domenica. Sono d'accordo, domenica, domingo de sangre per me. Durissima, e quindi ci troviamo, siamo quattro amiche e abbiamo iniziato questa cosa. Adesso facciamo l'alta pasticceria con uno chef, vero? Lui viene lì e ci mette tutte intorno al tavolo, si dà gli ordini e noi sforniamo... Bignè alla crema di mandarino. C'è una scena al postino, suona sempre due volte, con quattro donne sul tavolo. Beh, sul tavolo no, però intorno al tavolo, intorno ai fornelli, tutte belline, perché poi insomma il grembiule va messo, quello... Certo, se no la divisa non è completa, se non c'è il grembiulino, che gusto non c'è? Non è completa, adesso io devo comprare il pennello, per esempio il pennello in cucina. Ah, pensavo quello lo portasse lo chef. Invece ognuno deve avere il suo pennello per imburrare come si deve, poi ci sono mille segreti, insomma, voglio dire insomma avete trovato una maniera per crearvi delle domeniche alternative. Io penso che l'invidia delle persone che vi ascoltano in questo momento non avrà limiti. Continuate così, perché penso qual è il prodotto finale poi di tutto questo imburramento, spennellamento e sgrumbiulamento con lo chef? Torniamo a casa dai mariti pieni di dolci da mangiare, felici, contente, e loro tutti contenti lì, tutti con un po' di peso sulla fronte, mangeranno felici il frutto della vostra gaudiosa domenica. Grazie Francesca. Luca. Salve, buongiorno. Lei è un mio di casa? Abbastanza, nel senso che io non sono mio di casa perché lavoro tanto, però anche mia moglie lavora tantissimo e quindi abbiamo suddiviso gli impegni tra noi due, insomma, ce li siamo suddivisi durante la settimana. E come passate piacevolmente il vostro tempo nella maniera che abbiamo capito, la più seducente possibile, come ci ha spiegato la nostra amica poco fa? In realtà io volevo raccontare della nostra esperienza rispetto al ritorno alle usanze di una volta. È stata quella di mettere su un pollaio. E dove lo tenete? In casa? No, lo teniamo in giardino. Abitate in una zona civilizzata, che non si può, è proibito tenere un pollaio. Abitiamo in una zona civilizzata, però abbastanza distante dalle mura della città, per cui questo è consentito. Ma si può? Si può. Perché le galline sono simpatiche, ma fanno una puzza orribile, la pollina... No, non è vero, questa è stata una scoperta. Profumano le galline, guardi, ci sono nato insieme alle galline, guardi, ci andavo tutte le mattine a prendere l'ovetto fino almeno all'età di 15 anni. Ci siamo molto informati su questo tema, abbiamo messo su un pollaio completamente ecologico, cioè sostanzialmente... E gli mettete il pannolone, scusa, galline fanno una cosa terrificante. Se mi fa raccontare, le mura sono fatte di paglia sostanzialmente, c'è una copertura, questo consente il passaggio dell'aria, il fondo del pollaio è fatto di terra... E quindi contorba, per cui i rifiuti delle galline sono sostanzialmente si riciclano molto prima di quanto non avviene su un fondo, ad esempio, di pietra o di paglia. E il passaggio dell'aria, anche notturno, visto che la paglia scalda, consente una mancanza di ristagno di odori. Quindi è, no. è un pollaio ecologico tecnologico che sì, permette. Ma la cosa divertente è che noi, cioè, quando ho avuto questa idea, perché noi le uova non riusciamo a mangiarle, quelle insomma, diciamo così, industriali. È cominciata un po' come un tentativo e poi questa cosa invece è andata avanti e ci ha educato molto anche nel rapporto diciamo col cibo. Senta, perché... l'ultima cosa, quando è ora di mangiarsi cosa fate? L'iniezione letale, visto che è un sistema ecologico, per ammazzare le galline come fate? No, per ammazzarle è molto semplice, si sceglie il modo antico che... Tirate il collo? Esattamente. Si tira il collo, quello è ancora rimasto tradizionale. Annalisa De Luca, scusi, io l'ho tenuta nel suo letto di dolore, ma tanto visto che sta coricata con l'aspirina, può ascoltarci. Mi dia un commento a questa fantasmagoria di piaceri, di lussure, di doppi sensi, di sottintesi e di omini di casa che felicemente svolgono delle funzioni che un uomo sarebbe vergognato soltanto qualche anno fa di proclamare come sue attività preferite. Ma io ho l'impressione che venga vissuta proprio come una forma d'arte, in un certo senso, perché anche la signora che diceva che aveva la scuola di danza e che l'aveva abbandonata perché non ne poteva più di stare davanti al computer, cioè tante persone non hanno più attività manuali, non gli capita di svolgere attività manuali e c'è un piacere molto profondo proprio nel vedere le proprie mani che producono delle cose straordinarie senza che dietro questo ci sia magari proprio un discorso, cioè il distacco fra il discorso normale e una cosa che viene fatta con una specie di conoscenza tacita che ci portiamo dietro da lontano. Poi io trovo che in realtà io so che sono assatanato al problema dello spazio nelle case, ora delle case vuote sono sempre troppo piene. Produrre articoli culinari, si produce del materiale che poi viene eliminato. Se io fabbricassi vasetti o fabbricassi modellini di astronavi avrei la casa piena. Se fabbrico biscotti sono sicuro comunque nel giro di qualche ora scompaiono e posso ricominciare da capo. Quindi è una forma di hobbistica che non lascia tracce, è autoeliminante, non lascia tracce dei piaceri, quindi è una delle cose migliori. Ricordo il libro di Annalisa De Luca, Facciamo il pane, Terra Nuova Edizioni, tutto per fare il pane in casa. E noi ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé? Pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec. Ci siamo avventurati con fare periglioso e con disprezzo per ogni convenzione infranta nel territorio segreto dei piaceri culinari. Abbiamo capito che in realtà la vera reazione al torpidume, all'intorpidimento, alla mestizia diffusa, al fatalismo che trapela in ogni poro è quello di rifugiarsi in cucina e cucinare. Cucinare non per il piacere della crapula, non per il piacere del proprio stomaco, non per creare dei cibi favolosi, semplicemente per occupare il tempo in qualcosa che è una sorta, mi viene in mente quei monaci buddisti, molte volte vengono sotto la galleria Alberto Sordi a Roma, che fanno un mandala fatto di sabbia, ci mettono una settimana e stanno lì con delle cannuccine, con le sabbie colorate a creare questa sorta di opera artistica meravigliosa, appena finita la distruggono. Il vero senso dell'opera d'arte, dell'attenzione, del costruire una metafora, della metafisica, delle ragioni dell'esistere, è quella di distruggerla subito. Per la stessa ragione giorno ci si chiude nelle cucine e si creano degli oggetti meravigliosi che vengono divorati, che hanno il fantastico destino nascere grazie a un desiderio creativo e di essere distrutti grazie a un desiderio di seducente e sinuosa voracità. Antonio, omino di casa, lei cosa fa? Io mi diverto a fare la birra. Da qualche anno ho questa passione che mi porta via tantissimo tempo, perché fare la birra è un lavoro lungo e periglioso. E come si fa? Perché è una passione nuova questa, di farsi la birra a casa è un passo avanti rispetto all'attività dell'omino di casa che fa i biscotti o fa la marmellata di marroni. Fa la birra e poi si alcolizza con la birra che lei fa, quindi è un'attività da omino di casa nella prima parte, ma da omaccio, da osteria nella seconda. Esatto, direi più il secondo, perché chi fa la birra è difficile che poi si diletti a fare grandi ricette in cucina, sono proprio due mondi paralleli. Nulla, io comincio, è un lavoro molto lungo in realtà, perché esistono molti modi per fare la birra, ultimamente vanno di moda i kit, e io assolutamente ho lasciato quella strada già da molto tempo e comincio proprio da zero, cioè compro il malto, il grano maltato di orzo, ho il mio piccolo mulino in casa, macino il grano, insomma è un lavoro che impiega praticamente una giornata intera, dalla mattina fino alla sera, fino a quando si mette questo liquido meraviglioso nel fermentatore e si aspettano i 15 giorni prima che la fermentazione... Ma resta nei 15 giorni questa massa vomitevole in casa, non fa un cattivo odore? Assolutamente, un odore meraviglioso. E dove la tiene? La tengo in cucina, ho la fortuna di avere una cucina abbastanza grande. Quindi ha questo bidone di materia fermentata? Esatto, sì che fermenta, certo. E dopo 15 giorni cosa succede? Ma dopo 15 giorni, diciamo a metà, si fa un travaso per togliere i residui di lievito in eccesso, quindi la settimana successiva, alla fine di tutto, si imbottiglia in bottiglie sterilizzate, si mette un goccino di lievito oppure di zucchero per far ripartire la fermentazione in bottiglia e dopo 40 giorni la birra, a seconda della varietà di birra, si può bere. Ecco, lei quanta ne produce in media ogni mese? Beh, insomma, ogni mese sarebbe bello, ma no, purtroppo faccio un lavoro che mi porta via molto tempo, quindi ne faccio una ogni 3 mesi circa e sono più o meno 30 litri ogni 3 mesi, a volte quando più tempo d'estate ne produco. Beh, considerevole, una quantità considerevole. A quale birra assomiglia di quelle commerciali, senza dire le marche, quella bionda, quella un po' più scura, quella rossa, la birra sua com'è? No, grazie a Dio non somiglia a nessuna delle birre commerciali, perché ovviamente il livello è molto più alto quando si fa una birra artigianale. Io ne produco 5 varietà diverse, dalla birra stout, che ricorda, insomma non posso dire il nome, però una birra molto scura, che sa di caramello, e poi ne faccio una Weiss, una birra di grano, poi faccio una birra Pils, e poi insomma una birra rossa in stile trappista. Guardi, resti in linea in questo momento, perché abbiamo al telefono un ospite che potrà dare conferma sulla qualità della sua produzione artigianale. Lelio Bottero, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Lelio Bottero è un esperto di birra artigianale, ha scritto anche un libro, Birra fatta in casa, scritto con Matteo Billia, edizioni Gribaudo. Ha sentito, io l'avrei chiamata comunque a parlare di questa attività che ignoravo, ma abbiamo trovato qualcuno che fa un prodotto di livello, mi sembra di capire. Allora, confermo, non conosco Antonio, ma confermo che gli homebrewer, gli appassionati di birra casalinga, fanno a volte delle birre veramente ottime, superiori a quasi tutte le birre commerciali. In casa si possono fare dei prodotti strepitosi, confermo assolutamente. Ma servono dei macchinari particolari o si può fare con quello che si ha in casa? Ma in realtà serve della competenza, della bravura, della fantasia e delle pentole. Poi, come in tutte le attività, ci si attrezza un pochino, spesso con l'autocostruzione, sono hobby che a volte vanno di pari. Ma esiste il kit del piccolo birraio casalingo? Esiste il kit del piccolo birraio, giustamente l'ha citato Antonio, è il kit d'inizio di approccio e dopo si va oltre. Se uno addirittura il mulino per macinare il grano, è una cosa. Altro che. Molto spesso è derivato da una macchina per fare la pasta modificata. Ah, si modifica una pasta matic e diventa una macina grano? Sì, qualcosa quella per tirare la pasta, per fare la pasta. Ah, sì, ho capito. Si modifica. Beh, questo darà grandi soddisfazioni a voi e alle vostre signore, sono molto contento. Sentiamo Lucia. Lucia. Buongiorno, io volevo intervenire su questo argomento. Allora, che il mio uomo invece in cucina, quando ci mette piede, mi fa un tale macello che dopo ci vuole veramente la fulgida per ripulire tutto quello che fa. Vabbè, fa parte di quella sottospecie di uomini che in realtà hanno un tal disprezzo di questa attività, perché la considerano poco virile, poco adeguata e tutto, nascondendo in realtà enormi problemi, e quindi sporcano e insozzano come un bambino bambino che la fa fuori del vasino, la stessa cosa. Immancabilmente, esatto, immancabilmente dopo, per non litigare, io devo uscire dalla cucina, non vedere quello che fa e intervenire dopo per ripassare tutto e ripulire. Perché anche quando lui dice di aver pulito tutto, naturalmente c'è un comunque macello. Guardi, molte coppie hanno questo legame fantastico. Si incontra il sadismo dell'uomo che sporca tutto con una sorta di masochismo della donna che poi ama pulire la zozzeria del proprio uomo. È come quegli uomini che si lavano poco, che hanno le mogli che gli tagliano le unghie dei piedi, qualcosa del genere, penso. Non ci arriverei mai, per favore. Questa mattina lei mi sta divertendo in una maniera fantastica, sa perché? Perché tutti i suoi doppi sensi che le persone non colgono nel momento perché sono prese da quello che vogliono dire. Ma io non ne ho fatto nemmeno uno questa mattina, la conti solo lei. Come no? Me ne citi uno, le giuro, guarda. Guardi, veramente lo dico in buona fede, non mi sono accorto di aver fatto doppi sensi. Dove ha colto un doppio senso nelle mie parole? Beh, per esempio dello chef, quando ha detto pensavo che lo portasse lui determinati attrezzi. Beh, normalmente lo chef viene con la sua valigetta, con tutti gli è gelosissimo dei suoi attrezzi. Ma dei suoi non li dà naturalmente alle persone. Beh, lui da lì a fare lezione si porta la valigetta, come che ne so. Sì, vabbè, io ho colto dei doppi sensi. Perché lei è maliziosa. Sono io maliziosa. Certo, naturalmente maliziosa. controlli bene la sua vita, perché questa malizia è sproporzionata rispetto all'innocenza delle mie parole. Grazie signora, grazie a Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani. Alors tous deux on est parti dans tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.